La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, buon weekend, buon cinema a tutti dalla nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora per raccontarvi un po' di film, dei sei che escono questa settimana. Lo ricordo, usciranno La vita negli oceani, documentario ecologista, diciamo così, poi Project X, Seven Days in Havana, La mia vita è uno zoo, Edward e Wallis e La carica dei 101. Abbiamo tenuto spazio per 5 di questi 6 film, quindi si parlerà non di tutto, ma di quasi tutto quel che esce al cinema. Allora riepiloghiamo i contenuti principali nei nostri titoli di testa. 7 corti per 7 giorni a L'Avana. Arriva nelle sale italiane il film collettivo firmato da 7 registi, tra i quali Pablo Trapero, Benicio del Toro e Laurent Canté, un affresco di vita nella capitale cubana, fra orgoglio e voglia di fuga. Se avete intenzione di lasciare la casa libera ai vostri ragazzi per una festa tra amici, ripensateci, o almeno andate prima a vedere Project X, una festa che spacca. Storia di una festa nata per una decina di amici e sfociata in distruzione di una villa della bella provincia americana. Giornalista vedovo trasloca per iniziare una nuova vita con i figli, ma si trova uno zoo in giardino. È la trama improbabile di La mia vita è uno zoo, riflessione agrodolce sulla famiglia, con Matt Damon e Scarlett Johansson, regia di Cameron Crowe. Storie parallele di due amori quasi impossibili a spasso nel tempo. È W.E., il film diretto da Madonna e presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia. La tormentata love story fra Wallis Simpson ed Edoardo VIII d'Inghilterra ispirerà una giornalista dei nostri tempi. Lo scopo della festa è che le ragazze riconoscano che siamo veramente da paura. Sarà, ma non vedo il punto però. Come non vedi il punto? Eccolo il punto! Eccolo il punto! Okay. E lì ci sono altri due punti, li vedi? Sei circondato. È chiaro. Se ci perdiamo questa occasione, via coltello. E non scherzo. Ok, non più di 20 persone. 20 persone? Dai, 30 persone, ok? 30 persone? Sì, dai, su. Facciamo 50 limite massimo. È andata. E allora avete sentito come cresce a dismisura il numero di persone da invitare a questa festa organizzata dai protagonisti di Project X, una festa che spacca, il sottotitolo italiano. L'abbiamo detto nei titoli, soprattutto se siete genitori, avete figli adolescenti, se dovete o pensate di lasciare organizzare una festa in casa vostra in vostra assenza, datevi un'occhiata a questo film, forse vi passerà la voglia. E allora raccontiamo un film che è un po' un caso, un film che racconta appunto senza attori di rilievo, sono tutti ragazzi molto molto giovani, racconta appunto di una festa che sfugge di mano ai suoi organizzatori. Cioè si comincia con questi studenti un po' nerd, così senza tantissima reputazione, anzi alla ricerca di costruirsene una, appunto di organizzare una festa che sia indimenticabile. Il problema è che la cosa sfugge di mano attraverso i nuovi social network, attraverso una serie di inviti che si allargano a macchia d'olio, e in questa casa arriva una marea di gente totalmente sconosciuta e si capisce soprattutto che il loro modo di divertirsi non è esattamente di quelli più canonici. Sentiamo questa clip dal trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Sono Thomas Cab, è il mio compleanno. Ci devi fare un salto, ok. È su Deacon Street. È la tua festa, siete voi che la fate? Sì. Beh, ci vengo, allora dice che spacca, fico, ci si vede stasera. Che c'è? Fatti i cazzi tuoi. Molte più di 100 persone. Gli abbiamo detto porta chi vuoi. Vi levereste dalla macchina di mio padre? Mi massacra se ci trova un graffio. Thomas, ho ricevuto un'altra telefonata. Sono sicuro che i vicini stanno esagerando. È ora di chiudere. Ma sei matto? Guarda che festa. O la piantate o chiamo la polizia. Ah! Insomma, succedono un po' di ogni. Dietro l'operazione c'è Todd Phillips, che è un nome che in questo tipo di commedia che spacca, per parafrasare il sottotitolo, ne sa qualcosa. Boris Sollazzo è con noi. Ciao Boris, è un film che non riesco a capire se detesto o se mi interessa. Tu cosa ne pensi? Guarda, non voglio psicanalizzarti, ma la parte tua genitore la detesta, la parte tua cinefila la adora, fidati. È semplicemente il panico che io stesso ho provato da liceale nerd, quale sono stato, immedesimandomi nei protagonisti, tu temo ti sia immedesimato sui genitori che... Beh, in questo momento sì, effettivamente, però feste così mi è capitato di organizzarne negli anni belli in vacanza, dove effettivamente ti trovavi a un certo punto la casa invasa da persone che non conoscevi. Sì, sì, ma i furti, utensili rotti, mobili buttati dalla finestra, insomma, ognuno di noi ha una festa atroce di questo tipo nei propri ricordi. Per fortuna la maggior parte di noi ce l'ha in case di altri, e questo è fondamentale. Qui noi invece stiamo nell'ottica del padrone di casa, del padroncino di casa, questo ragazzo che ha 15-16 anni e che decide, convinto dal suo amico, probabilmente più sfigato di lui, di organizzare questa festa. Deve assolutamente uscire fuori da questo giro in cui tutti lo maltrattano, le donne non lo vedono, e ci riesce appunto con questa festa. Ci riesce fin troppo bene. Qual è la grandezza, secondo me, anche di Todd Phillips e non solo di chi ha diretto il film? La grandezza è creare l'elemento di suspense. Un po' come in Alpha Dog, tu vedi tutte le tessere del domino cadere, crollare, tu sai che arriverà fino alla fine, i protagonisti invece sono ancora ignari di quello che succederà, e questo ti crea una suspense, un'agitazione, un'ansia che non ti lascia fino alla fine del film. E non è male se si conta che sostanzialmente i protagonisti sono sconosciuti, che il meccanismo è collaudato fino ad essere banale, però l'adrenalina non ti abbandona mai, quindi io sono assolutamente pro questo film, anche se assolutamente non prendete non è, diciamo che non è proprio educativo al massimo l'assurdo è che verrebbe da dire ai genitori: attenzione a mandarci i vostri figli, che poi però sono il target esattamente di questo film. Comunque sia, questo è Project X, una festa che spacca, film che ha fatto discutere ovunque uscito, adesso arriva anche da noi. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco poi torniamo, abbiamo due film che ci aspettano, e sono uno, Reduce da Venezia, che ci riporta Madonna in veste di regista, e l'altro, La mia vita è uno zoo, forse per le star in campo il film della settimana, perché Matt Damon e Scarlett Johansson fanno comunque una bella coppia. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, cominciamo la seconda parte del nostro programma in maniera un po' più quieta rispetto a come abbiamo aperto con Project X. Vi parliamo di un film, anche se non del tutto quieta è la sua regista, insomma, anzi anima abbastanza inquieta, quella di Madonna. La signora Ciccone è tornata dietro la macchina da presa, lo ha fatto presentando il film al Festival di Venezia nello scorso mese di settembre, l'ha fatto con un film abbastanza originale, non del tutto riuscito, forse non riuscito, sicuramente coraggioso, che cerca attraverso una parabola temporale di raccontare un amore impossibile e di farne trarre ispirazione alla protagonista del presente. Stiamo parlando di W.E., perché è un film che si intitola con le iniziali dei due personaggi protagonisti della storia d'amore impossibile del passato, ovvero Edward e Wallis. Racconta appunto questo amore del 36 tra re Edoardo VIII, che dovette rinunciare alla corona inglese proprio forse per l'amore per Wallis Simpson, e invece al giorno d'oggi la storia di un'altra donna che si chiama Wally Winthrop, quasi un'assonanza con la sua Ava nascosta inconsapevole, e che da quella storia, studiando quella storia, cerca una via nella propria vita. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Qualcuno l'ha definita la più grande storia d'amore del XX secolo. A cosa sta pensando? A come ci si deve sentire ad essere amati così tanto. Tutte le ragazze americane sono così brave a ballare. Non saprei, signore, non ho ballato con tutte. Buon compleanno, Wee. Chi è Wee? Wallis Edward. Non ho mai conosciuto nessuno che fosse talmente ossessionato da una persona come lui lo era da lei. La tua famiglia non lo consentirà mai, il primo ministro non lo consentirà. Allora rinuncerò al trono. E io diventerò la donna più disprezzata al mondo. Allora, questa era la clip dal trailer di W.E. Boris, si è presa un bel compitino Madonna con questo film. Ma abbastanza assurdo, devo dire, abbastanza assurda come scelta, a mio parere. Probabilmente dipende dal fatto che come regista l'hanno sempre accusata di essere figlia di altro, di altri, in particolare dei suoi uomini, ha provato a raccontare una storia completamente diversa. Certo è che mi sembra il suo registro molto più quello di Sacro e Profano che di questo melodramma sentimentale, anzi drammone sentimentale, che recupera la storia appunto che tu raccontavi, di questa coppia più bella ma anche più bistrattata del mondo, coppia reale che decide di privilegiare l'amore rispetto a una vita fatta, di una vita passata dietro una gabbia dorata, e qui la ripeschiamo attraverso, diciamo, il stratagemma narrativo non molto originale di una donna che si identifica in questa Wallis, che è Abby Cornish. Abby Cornish bellissima, anche abbastanza brava, ma che qui è costretta a fare da una parte un santino alla Lady Di e dall'altra una donna smorfieggiante che cerca costantemente di imitare il suo modello, che è questa donna che per amore ha rinunciato a tutto e che ha sofferto e che ha cercato, e che è stata persino esiliata. E il film, secondo me, alla fine non riesce ad accontentare nessuno, non riesce ad accontentare gli attori che non riescono a dare il meglio di sé, non riesce ad accontentare sicuramente sotto il profilo della scrittura perché è molto lacunoso, e la regia di Madonna sembra davvero un compito fatto maluccio, perché ci ritroviamo appunto con questo continuo barcamenarsi tra particolari kitsch e particolari molto chic, direi radical chic, e alla fine insomma mi sembra molto superficiale sia il modo in cui è trattato sia l'estetica che cerca di comunicare. Quindi mi dispiace, ma lo devo bocciare il film di Madonna, almeno da parte mia. Sono abbastanza d'accordo sulla conclusione, però nel percorso, a mio modo di vedere, qualcosa di interessante c'è, ed è comunque, a mio modo di vedere, da, non dico encomiare, perché se tu decidi di fare un film poi ti sottoponi chiaramente al giudizio degli altri, e se decidi di mirare troppo alto hai sbagliato a mirare troppo alto. Detto questo, mi sembra che qualche barlume di mano ci sia qua e là. È un film che è abbastanza diviso, questo, anche a Venezia, ricordo. Ammiro il coraggio di non scegliere un temino facile o una struttura narrativa vicina alle proprie corde, ma di cercare di fare un passo al di là. Poi si è rivelato più lungo della gamba, in questo sono d'accordo con te. Questo era W.E. o We, se preferite, Wallis ed Edward, di Madonna nelle sale italiane. Adesso giochiamo insieme. Perché a modo suo è addirittura brillante. Il problema è che in classe lui non c'è. Guarda fuori dalla finestra, ascolta la musica, scarabocchia, dorme, a volte russa anche, entra regolarmente alle 9, poi chiede di uscire e sta fuori almeno mezz'ora. La descrizione di un adolescente, di uno, potrebbe essere qualsiasi dei nostri figli, insomma. Questa clip, dovete indovinare di che film si tratta, dovete scriverci il vostro indirizzo per provare a vincere una copia del film per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Che è successo con Lily? Non lo so. Forse non ho ascoltato qualcosa che ha detto o non l'ho capita. Mi piaceva Lily. Sai, quando ti rendi ridicolo se dici qualcosa e ti rendi ridicolo se non dici niente. Vedi, a volte tutto quello che serve sono 20 secondi di spudorato coraggio. Davvero, bastano 20 secondi di imbarazzante coraggio. E posso assicurarti che il risultato può essere meraviglioso. E questo è una clip filosofica, potremmo dire, tratta da quest'altro film di cui vogliamo parlarvi, La mia vita è uno zoo, di Cameron Crowe, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Hayden Church, per citare i nomi più importanti di una locandina densa, perché comunque si tratta di attori molto interessanti. La mano della regia è una mano capace di porsi di fronte anche al soggetto apparentemente più banale. Qui siamo di fronte a una famiglia che la famiglia di uno scrittore di avventura, un giornalista di Los Angeles rimasto vedovo con questi due figli, che tenta una ripartenza da zero cambiando tutto e cambiando soprattutto casa e luogo. E questo, ripeto, è un trait d'union di centinaia di film, ma scoprirà nella casa che si è andato a scegliere che lì c'è uno zoo di cui lui non sapeva nulla, e proprio nel rapportarsi agli animali di questo zoo, nel prendersene cura, troverà un'altra possibilità di avvicinamento e di alchimia possibile con i propri figli. Detta così sembra un family movie di quelli che appunto escono in tarda stagione, ma ripeto, la mano di Cameron Crowe e i volti soprattutto di Scarlett Johansson, ma anche forse di Matt Damon, forse danno un profilo, una terza dimensione, una profondità diversa a questo film, Boris. Io non sono molto d'accordo, devo essere sincero. Io sono un amante folle di Cameron Crowe, Almost Famous è uno dei miei film del cuore. Però qua mi sembra proprio che se ci avesse pensato i famosi 20 secondi che dice in uno dei dialoghi più riusciti effettivamente del film, forse avrebbe scelto un'altra sceneggiatura, perché trovo che Crowe qui, quello che lui riesce a raccontare molto bene, che sono dei sentimenti elementari allo stesso tempo però sfuggenti, qui invece li banalizza attraverso una storia che a me sembra molto simile ai family movie televisivi che ci ritrovavamo a vedere sulle reti private quando eravamo più piccoli. Sicuramente si vede la mano che dici tu, ci sono dei momenti molto belli, in particolare secondo me quando riprende una Scarlett Johansson finalmente non ansiosa di piacere ma che cerca di recitare, o quando va su, forse sul personaggio che gli è più affine come regista, che è Thomas Hayden Church. Viene tradito secondo me dai ragazzi, dai bambini che non sono all'altezza, la stessa Elle Fanning che è un fenomeno, l'avevamo vista in Super 8, qui non fa che ridere, civettare, non riesce ad andare, e viene tradito secondo me da un Matt Damon molto fisso a cui non riesci mai a credere in questa rivoluzione. Un po' dispiace perché il film sembrava sentimentalmente nelle corde di Crowe, poi mi sembra davvero che non riesca mai a decollare, non riesca mai a trovare anche quell'ironia, parlando di Almost Famous, ma non solo, Crowe è bravissimo a raccontare i personaggi secondari, qui invece li lascia andare, li caratterizza benissimo, ma poi non ce li racconta mai, quindi rimane avvinghiato a questa storia lacrimevole che tra l'altro non fa molto lacrimare, quindi devo ammettere che nonostante il mio amore per Crowe in questo caso sono rimasto deluso. Non ha lacrimato allora Boris Sollazzo per questo film? Non ho lacrimato neanch'io, a dir la verità. Oggi abbastanza severo il nostro Boris, ma noi lo vogliamo così. Rimane il fatto che La mia vita è uno zoo, Without the Zoo, in America ha incassato 75 milioni di dollari, che non sono tantissimi ma non sono neanche una fesseria, e soprattutto che ha anche in questo caso, come è stato in Wally ed Edward, ha abbastanza diviso la critica. C'è chi ha dato 3-4 stelle a questo film, che invece l'ha stroncato, e come sempre non resta che vederlo. Ehi Rosy, ne faccio almeno una giusta? Sei più bello degli altri, papà. Muschi non hanno i capelli. Questo è un bene. Cerca di cominciare da capo. Cercherò di cominciare da capo. Luce del sole. Gioia. Vi saluto in ricordo dei bei momenti trascorsi insieme e mi licenzio. Hey! Vogliamo qualcosa di nuovo. Nuove opportunità, nuove scuole. Vogliamo tutto nuovo. È esattamente quello che stavamo cercando. È complicato. Cos'ha di complicato questo posto? È uno zoo. Addiva! E allora, dopo questo ruggito, noi salutiamo Boris Sollazzo. Ci sentiamo la prossima settimana, Boris. Alla prossima settimana, Franco. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Abbiamo ancora un paio di film di questa settimana. Diciamo un film è un evento più che altro da raccontare, e voglio dedicarmi prima al film. Fra le uscite di questo weekend, l'abbiamo detto anche nei nostri titoli di testa, c'è anche Seven Days in Havana. Il titolo è, diciamo così, tutto un programma, perché racconta proprio 7 giorni, una settimana passata a L'Avana, la capitale di Cuba, e lo racconta come film a episodi, quindi 7 episodi, 7 cortometraggi in realtà, di 7 diversi registi. Potremmo parlare di un film a 14 mani, molte sicuramente. I registi sono tutti molto conosciuti nel circuito festivaliero, alcuni molto conosciuti in assoluto. Si va dall'attore Benicio del Toro al grande regista francese Laurent Cantet, a Julio Medem, Elia Suleiman, Pablo Trapero, Gaspar Noé, altro regista di grande interesse, di grande cifra, e Juan Carlos Tabio, che si sono misurati proprio con alcuni aspetti della vita a Cuba, della vita a L'Avana, cogliendone gli aspetti più controversi, se vogliamo, più contraddittori, di questa che rimane una delle location, delle località più ricercate per il turismo internazionale, vuoi per una sua allure anche politica di un certo tipo, vuoi perché luogo di scorribande, spesso anche a sfondo sessuale, per molti, insomma, per una serie di motivi L'Avana rimane, vuoi anche per la sua grandissima musica che rimane sicuramente, la fa rimanere sicuramente ai vertici mondiali, insomma, per tutti questi motivi messi insieme o separati, L'Avana rimane un luogo fra virgolette mitico del turismo mondiale. E in questi 7 episodi i registi che si sono cimentati, ognuno con un aspetto, a volte intrecciandosi, a volte intrecciando gli attori fra un cortometraggio e l'altro, cercano di restituire un sapore, un affresco di cosa significhi oggi più che L'Avana sotto il profilo visivo, L'Avana sotto il profilo dello spirito. Allora noi cerchiamo di ricostruirlo, questo spirito, che chiaramente non può fare a meno della sua grande musica, con la nostra clip. Sono americano. Ho un debole per gli Yankee. Il signor Elia è qui con me all'ambasciata per il suo incontro con il comandante. Mi dovresti alzare un muro qui, bello spesso, per mettere la Vergine. E lo vuoi per stasera? Sì, per stasera. Qualsiasi cosa chiedi a me, qualsiasi. Sono disposto a cominciare una nuova vita con te. Lascerò la mia compagna. Ha problemi con sua moglie? Sì. Voglio dire, no. Tutti gli uomini hanno problemi. Lei lo sa che quella donna è un uomo? Cosa? Joaquín Hernández Díaz. E ci sono anche dei piccoli incidenti di percorso, come avete sentito, in questo film che si possono in cui si può incappare in questa città magica. Entriamo un po' sviscerando meglio i 7 episodi, appunto chiamati come i giorni della settimana, ma con un prefisso. Allora si va da El Yuma, il lunedì, di Benicio del Toro, a Jam Session, il martedì, di Pablo Trapero, La Tentazione de Cecilia di Julio Medem il mercoledì, Diary of a Beginner è il film di Elia Suleiman il giovedì, poi Ritual il venerdì di Gaspar Noé, secondo me il più bello degli episodi, Dulce Amargo di Juan Carlos Tabio è il sabato e La Fuente è la domenica di Laurent Canté. E se nel lunedì Benicio del Toro ci racconta di un americano che arriva a L'Avana e viene immediatamente raggirato da un finto tassista che lo porta poi in un luogo nel quale in realtà arriva, guarda caso, una bella discinta che vorrebbe prostituirsi per i suoi soldi, e se in Jam Session Pablo Trapero ci racconta invece una situazione divertente, perché l'attore principale è Emir Kusturica, niente meno che uno dei più grandi registi del mondo, perennemente ubriaco in crisi matrimoniale. E poi abbiamo La Tentazione de Cecilia, questa ragazza divisa fra lo scappare da L'Avana o restare con un uomo che forse non ama più abbastanza, o forse invece sono solo le sirene dell'Occidente che si fanno sentire. Tra l'altro la protagonista della Tentazione de Cecilia la ritroveremo anche in altri episodi, Melvis Santa Esteves. L'episodio più singolare, più particolare, è Diary of a Beginner di Elia Suleiman, nella quale questo signore palestinese va all'ambasciata palestinese a L'Avana e rimane soprattutto incantato in albergo dai discorsi perenni di un Fidel Castro che viene mandato continuamente in onda dalla TV cubana negli alberghi internazionali, quasi fosse un corpo vuoto che comunica un messaggio che forse non c'è più. Come dicevo, il più bello a mio modo di vedere è il film di Gaspar Noé, che senza parole ci racconta Ritual, una ragazza, una notte sulla spiaggia, grandi balli e poi una notte d'amore omosessuale con un'altra ragazza occidentale, i genitori che scoprono le due a letto la mattina seguente e la sottopongono sottopongono la loro figlia a un rituale che ha molto a che fare col sincretismo, con la santeria, di lacerazione degli abiti e purificazione nel fiume per uscirne nuova o come nuova agli occhi della madre, senza una parola, con solo musica in sottofondo, anzi un tamburo battente davvero molto molto efficace. E poi ancora Dulce Amargo e La Fuente, che hanno un po' a che fare invece con appunto questo aspetto della santeria, di una cristianità vissuta in maniera parallela, diciamo così, che ha molto a che fare anche con gli aspetti più pagani, se vogliamo, della vita. E questo è un po' il complex. Il film non funziona sempre perfettamente, essendoci sette sguardi di registi diversi. Ovviamente ci sono momenti più o meno riusciti, però complessivamente riesce nell'intento, che è quello proprio di dare dell'Havana una fotografia quanto mai moderna. E questo era Seven Days in Havana. A questo punto noi siamo arrivati alla seconda clip del film misterioso di oggi. Sentiamo. Con noi che babbo potreste avere? Te che fai? C'ho lezione, se becca mano certa. Ma che ci vai a fare? Sono soldi buttati. Pure mia madre ci vuole mandare. Ma com'è sto tipo? A posto, un po' fulminato. Fondamentalmente famo un cazzo. Buono, non è il numero. E allora La Rosa Purpurea @radio24.it, dovete dirci di che film si tratta, aggiungere il vostro indirizzo, uno dei film italiani più divertenti della stagione che si va chiudendo. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. È proprio Crudelia, la tua affezionata compagna di scuola, Crudelia Demon. Ho trovato! Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura perfino a un leon, al sol vederla muori da apprensione. Crudelia, Crudelia, è più letale lei d'uno scorpione. Rudy, ti sentirà? Crudelia, Crudelia Demon. Neil, apri la porta. Donito, tesoro! Come stai? Miseramente cara, come al solito, superbamente a pezzi. Crudelia Demon, Crudelia Demon. Gaspare! Farebbe paura persino un leone, più letale lei di uno scorpione. Crudelia, Crudelia Demon. Eh beh, insomma, le note sono inconfondibili. La canzone è una delle più riuscite di uno dei film più divertenti per qualche generazione. La carica del 101, grande capolavoro Disney, nella seconda interpretazione è Stefano Bollani, grande musicista, ma anche one man show per quanto riguarda la nostra musica di qualità. E allora, perché vi abbiamo fatto sentire qualche nota e qualche battuta della carica del 101? Perché tre capolavori dell'animazione classica Disney tornano al cinema, proprio a cominciare da questa settimana e a cominciare dalla carica dei 101. Una grandissima occasione quella di vedere sul grande schermo questi film, perché non sono film che fuori dal circuito non si riescono a vedere al cinema. L'opera Disney è difficilissima da vedere al cinema sul grande schermo, chiaramente grandissima disponibilità per quanto riguarda non video, ma come sosteniamo da sempre non è la stessa cosa. E allora grande occasione da acchiappare al volo, perché dal 9 giugno al 1 luglio con una programmazione speciale ci saranno questi classici al cinema Disney che cominciano questa settimana appunto con la carica dei 101, che continuano con La Bella e la Bestia, che proseguono poi con Cenerentola, e sono questi i tre film che arriveranno in circa 150 sale italiane. Dicevamo, una grande occasione per recuperarli sul grande schermo, a cominciare da questo che per il tratto è forse quello che ha segnato maggiormente il suo periodo, la carica del 101. La Bella e la Bestia è un classico recente, Cenerentola è un classico classico, un classico antico del passato, però è forse la carica del 101 quello, anche per il tratto del disegno, più affascinante da vedere sulle grandi superfici. E quindi segnaliamo questa presenza in sala per genitori che una volta erano bimbi e bimbi che saranno un domani genitori e si porteranno dietro probabilmente ancora questo grande ricordo. E allora, classici Disney al cinema da qui al 1 luglio. E allora, Allora, prima di passare la linea alla viabilità, diamo un'occhiata un po' ad alcune notizie. È stata una settimana importante per alcuni beniamini del cinema. Intanto è stato reso noto il primo trailer completo del nuovo film di Quentin Tarantino, Django Unchained, film che diciamo prende le mosse in maniera abbastanza diretta dal classico di Sergio Corbucci. Ancora una volta, quindi, Quentin Tarantino pesca a piene mani dal cinema di genere italiano degli anni 60 e 70. In questo caso Django, lo ricorderete forse con Franco Nero e il film, tra l'altro un altro tocco di italianità, perché la locandina ufficiale è stata disegnata quasi per caso da un giovane grafico italiano che l'ha mandato, diciamo, senza speranza a Quentin Tarantino, che si è invece innamorato di questa locandina e l'ha sposata per il suo film. Quindi primo trailer online, potete vederlo e prendere il sapore di questa storia di uno schiavo che cerca di recuperare la sua moglie rapita dal bianco ricco cattivo di turno. E poi c'è una nuova firma per George Clooney alla regia. George Clooney tornerà, abbiamo parlato di Seven Days a La Habana, George Clooney tornerà alla regia dopo Lady di Marzo con The Yankee Comandante. Sarà un adattamento di un articolo del New Yorker omonimo e racconterà la storia di William Alexander Morgan, che nel 59 aiutò i ribelli cubani a rovesciare il regime di Batista, per poi essere accusato due anni dopo dal regime di Fidel Castro di essere una spia americana con successiva esecuzione. Clooney sarà regista, non si sa ancora se terrà per sé anche un ruolo da protagonista. Infine, una occhiata al box office, come sono andate le cose lo scorso weekend. Men in Black 3 ha esordito, non ha esordito, ha continuato in realtà al comando, è arrivato a 4.408.000 euro di incasso globale, è ancora il film più visto dello scorso fine settimana, davanti a Lorax, che però raggiunge a malapena i 630.000 euro, e questo la dice lunga su una stagione che si sta già drammaticamente accorciando. Dark Shadows di Tim Burton sfonda il muro dei 6 milioni globali ed è terzo in classifica, ma ci vuole davvero poco. Pensate, Killer Elite con 290.000 euro è quarto, e Marilyn esordisce molto molto piano, 252.000 euro per un quinto posto. Questo è un po' la situazione per quanto riguarda il box office. Eccoci qua, la quarta parte della Rosa Purpurea. Come da tradizione, è il momento in cui il grande schermo incontra il piccolo schermo. Vediamo quali sono i film più interessanti, o fra i più interessanti, della prossima settimana nei palinsesti televisivi in chiaro sulla digitale terrestre. E lo facciamo come sempre con gli amici espertissimi della redazione di Film TV, del settimanale Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Allora Giulio, oggi abbiamo scelto un paio di veri capolavori, uno molto lontano nel tempo, uno molto più vicino. Cominciamo da quello più lontano. Si è parlato spesso del famoso Lubitsch Touch, cioè il tocco di Ernest Lubitsch, che consisteva nella capacità di raccontare con tempi fantastici, perfetti e con grande leggiadria commedie di sapore e di intensità davvero notevoli. È il caso di Scrivimi Fermo Posta, che andrà in onda su Rai Movie questa settimana. Sì, Scrivimi Fermo Posta, lunedì 11 su Rai Movie alle 6.30. Alfred e Clara lavorano come commessi in un negozio ed entrambi coltivano segretamente un amore epistolare con un anonimo e affascinante corrispondente, senza accorgersi che le persone gli dedicano lunghe lettere amorose e di fronte ai loro occhi. I due infatti scrivono inconsapevolmente l'una all'altra e viceversa. Una delle vette del cinema di Lubitsch, con il famoso tocco del maestro in stato di grazia, in un meccanismo perfetto, elegante, divertente e persino malinconico. Un assoluto capolavoro. E questo è assolutamente la valutazione di Scrivimi Fermo Posta di Ernest Lubitsch, titolo originale The Shop Around the Corner, il negozio dietro l'angolo, lunedì 11 giugno Rai Movie alle 6.30 del mattino. Immagino che siano i registratori a dover fare il loro lavoro. La seconda recensione, dicevamo, capolavoro molto più recente, un'intensissima interpretazione di Richard Jenkins in L'ospite inatteso di Thomas McCarthy. Sì, L'ospite inatteso, mercoledì su Rai 5 alle 21.15, un professore torna a New York per una conferenza e trova il suo appartamento occupato da due immigrati clandestini. Dopo l'iniziale spaesamento nasce un dialogo fertile, un sentimento di solidarietà a ritmo di tamburo. Tad McCarthy racconta la storia di un uomo stanco e anestetizzato che scopre gradualmente, nel confronto con l'altro, nuovi stimoli per una rinascita. Un film letteralmente trascinato dall'interpretazione di Richard Jenkins, caratterista di cinema e TV, qui alla prima interpretazione da protagonista che gli è valsa una nomination all'Oscar. E, tra l'altro, da lì è rilanciata la carriera di un attore che ha i suoi anni come Richard Jenkins, ma che da lì in poi fortunatamente è stato ripescato a piene mani dal cinema americano. L'ospite in atteso da non perdere martedì 12 giugno su Rai 5, stavolta una bella prima serata alle 21:15. Grazie alla redazione di Fil TV e a Giulio San Giorgio. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora andiamo a sentire l'ultima clip misteriosa del nostro game di oggi. Amante, ti metto in mezzo, sono cose nostre. Che stai parlando? Devi andare a scuola, amore. Cazzo, ho flashato 5 minuti ma. È tardi. Sciolla in 3 ore. E allora, che film è? Diteci il titolo, diteci il vostro indirizzo per provare a vincere l'edizione un video di questo film. La prossima settimana le soluzioni, la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per partecipare. La settimana scorsa avevamo sentito questa clip. Jar, è un vero delitto che abbiano tenuto un genio come te chiuso in gabbia. E loro agente Lupetto J mi ha beccato mentre mi ciucciavo l'ozono per venderlo al mercato nero. Sono suscettibili sul surriscaldamento. Mi serve un'astronave, una cosetta che viaggia almeno a 300 volte la velocità della luce. Trovamela e ti darò quello che vuoi. Dammi J e siamo pari. Da favola. E allora si trattava di Men in Black 2, questo era il film con cui abbiamo giocato settimana scorsa, proprio giocando anche sul fatto della presenza in sala del nuovo episodio. Chissà, qualcuno può anche tentare di farsi una cultura su questo straordinario, almeno nel primo e nel secondo capitolo, il terzo un po' meno, straordinario episodio di commedia legata all'azione, legata alla fantascienza. Ci sono tanti generi che si mischiano, c'è una grande ironia di fondo. E allora Men in Black 2 lo hanno indovinato, lo hanno vinto Massimiliano Raponi di Ascoli Piceno e Gianluca Fantoni di Muggiò, provincia di Monza. Invece, per quanto riguarda i contenuti di questa edizione in un video, noi abbiamo già in collegamento il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Il film di Barry Sonnenfeld del 2002 arriva in Blu-ray con una qualità sicuramente superiore rispetto al DVD, il formato immagine è quello originale rispetto alla cinematografia dell'epoca. Per l'audio ritroviamo la stessa traccia in italiano, Dolby Digital inclusa nella vecchia edizione DVD, mentre l'originale inglese, almeno questo, ha beneficio di una nuova codifica DTS ad alta risoluzione. Tra gli extra segnalo il commento del regista, molto divertente, c'è un finale alternativo, vari focus sugli effetti speciali, la creazione degli alieni, ma c'è addirittura l'analisi approfondita di alcune sequenze in modalità multiangolo. E questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana. Invece andiamo alle recensioni. 1987, una regista si consacra a livello internazionale con un film che si intitola Il buio si avvicina. La regista era Catherine Bigelow. Mi meraviglio di te, May, questa non me l'aspettavo. Non è giusto che tu la faccia soffrire, Caleb. Deve uccidere stanotte. Non mi interessa come lo farai, ma devi farlo o sei fottuto. Che vuol dire morire restando in vita? E ti giuro che è una sensazione davvero spiacevole e che dura molto, molto tempo. In una zona rurale dell'Oklahoma, il giovane Caleb si incontra con la bella May che lo trasforma in un vampiro. Mentre il padre ne segue ostinatamente le tracce e cerca di salvarlo, Caleb è costretto a unirsi al gruppo di cui fa parte May. Sono creature della notte che si spostano in camper, nascoste alla luce del sole di giorno, mostri assassini notturni che vorrebbero eliminare il ragazzo perché è restio a uccidere per cibarsi di sangue fresco. La vampiresca opera cult, targata 1987, è la prima diretta da sola da Catherine Bigelow, dove la regista collaborò alla sceneggiatura assieme a Eric Red, dopo che quest'ultimo aveva appena terminato la scrittura di The Witcher. La Teodora, l'edizione italiana, per ora solo DVD, di buona qualità d'immagine, c'è una doppia traccia Dolby Digital monofonica, l'italiano di sufficiente resa, qualcosa meglio l'inglese. Molto interessante gli extra, perché c'è addirittura un documentario di 50 minuti sulla lavorazione e un approfondimento del critico Vieri Razzini sul film. Ricordo che all'estero è già disponibile anche l'edizione Blu-ray. E allora questo era Il buio si avvicina di Catherine Bigelow. Invece dalla parola scritta e dal successo planetario editoriale al cinema Millennium, uomini che odiano le donne. Quando ti potrai sedere? E ci vorrà un bel po', lo ammetto. Andremo insieme alla banca e dirai che io sola devo avere accesso ai miei soldi. Annuisci. Dopodiché non prenderai più contatto con me. Ogni mese preparerai un rapporto su un incontro che non avremo mai, nel quale descriverai come mi comporto bene, quanto socievole sia diventata. Poi tratterai col tribunale perché la mia dichiarazione di incapacità venga revocata. Se non ci riesci, questo video verrà diffuso in internet come un virus. In Svezia nel 2006 il giornalista Mikael Blomqvist, per uscire dai guai economici dopo aver perso un'importante causa in tribunale, decide di aiutare un anziano ecoindustriale per capire che fine abbia fatto la nipote scomparsa 40 anni prima. Aiutato da Lisbeth, un hacker con problemi psicologici vessata da un laido avvocato, affiorerà un torbido passato tra follie filonaziste e le barbarie perpetrate da uno psicotico serial killer. Dal primo romanzo della trilogia di Stieg Larsson e il remake del film svedese del 2010, che questa volta vede la regia David Fincher, che nonostante la complessità del racconto sa come tenere alta la tensione e non stempera nemmeno i momenti più grafici e disturbanti. Edizioni Sony Pictures Home Entertainment in alta definizione è prestigiosa, un'unica edizione, due dischi, con il primo dedicato al film, di strepitosa qualità video, c'è una doppia traccia di DTS ad alta risoluzione, italiano e inglese sono incredibili, e tantissimi extra, tra cui segnalo il commento di David Fincher, e ci sono vari focus sui personaggi principali, il casting, l'immedesimazione degli attori nei ruoli, le riprese in Svezia, Hollywood, la post-produzione e la promozione del film. E allora questo per quel che concerne Millennium, Uomini che odiano le donne. Avete sentito il remake del film del 2010, ma sapete, gli americani fanno così. Grazie Claudio, a risentirci. Ciao, a presto. E allora noi abbiamo finito qui la nostra puntata della Rosa Purpurea, grazie a Giorgio De Luca che ci ha aiutato in redazione, a Fabio Cantadori che ha curato la regia. Ci risentiamo la prossima settimana, il sabato alle 18, la domenica alle 15 in replica qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.